Emmeline Pankhurst. Una notte, quando Emmeline aveva 7 anni, il padre le si avvicinò e, pensando che stesse dormendo, le sussurrò: "Ah, se solo fossi un maschio!" Infatti, allora, e purtroppo ancora oggi in molti luoghi, essere femmina era considerata una disgrazia. Quello del padre rappresentò un episodio che scatenò in lei una forte ambizione. Si pose come traguardo e intento nella vita quello di difendere i diritti delle donne. Emmeline è il risultato di una preparazione durata almeno 5 secoli. Se vogliamo considerare le protofemministe, possiamo partire dal 1405, quando Christine de Pizan scrisse il suo La città delle dame. Nel 500 Moderata Fonte scrisse Il merito delle donne. Nel 600 Arcangela Tarabotti, dal convento in cui fu monacata a forza, scrisse diversi pamphlet che denunciavano la misoginia patriarcale. E poi le prime vere e proprie femministe nel 1700, tra cui ricordiamo Olympe de Gouges e Mary Wollstonecraft, che militarono durante la Rivoluzione francese ed entrambe scrissero dei diritti delle donne. Quindi Emmeline è la punta di diamante che porta le donne al voto dopo 5 secoli, nel 1929, un anno dopo la sua morte, dopo aver passato tutta la sua vita a combattere per il suffragismo. Emmeline, figlia di Sofia, nacque nel 1858, il giorno della presa della Bastiglia, e dichiarò sempre che questo aveva influenzato la sua vita, creando un legame spirituale con le donne della Rivoluzione francese e con Giovanna d'Arco, a cui si ispirava. Sin dall'età di 14 anni la madre la portava agli incontri delle suffragiste femministe. A 20 anni Emmeline sposò il 24enne Richard, un avvocato che supportava i diritti femminili, e portò avanti la sua causa per tutta la sua vita. Con le sue sole parole, Emmeline era in grado di legare a sé le persone, di toccarle emotivamente. Il suo carisma era in grado di ispirare anche senza alcun supporto scritto, come se ciò che diceva venisse sempre dal cuore, come molte donne che incarnarono la dea. Pensiamo alla regina Boudicca, a Rosa Luxemburg, a Giovanna d'Arco. Importanti furono le sue 3 figlie femmine, specialmente la primogenita, Christabel, che la affiancò fino all'ultimo nella battaglia per il voto. A 40 anni rimase vedova, lasciò il volontariato e cercò un impiego, e questo la mise in contatto con donne e bambine delle classi povere, portandola alla convinzione che le donne, per veder migliorare la loro condizione, avevano bisogno prima di tutto del diritto di voto. Abbandonò quindi ogni legame con gruppi politici e a 45 anni fondò la Women Social and Political Union, concentrandosi unicamente sul voto alle donne e tralasciando tutti gli altri obiettivi sociali. L'obiettivo del voto alle donne lo mantenne fino alla fine. Le donne dovevano diventare legislatrici. Ma le richieste pacifiche, le marce, gli incontri pubblici, le petizioni, le lettere, gli articoli e le riviste a favore del suffragio femminile che venivano vendute agli angoli delle strade non portarono a nulla. I tentativi di arrivare al voto in maniera pacifica e costituzionale furono vani. Dal diritto al voto rimanevano escluse solo 3 categorie di individui: i malati mentali, i criminali e le donne. Così, le azioni delle suffragiste divennero via via sempre più aggressive per toccare la borsa dei parlamentari e costringerli ad occuparsi del voto alle donne. Le suffragiste cominciarono a rompere le vetrine e incendiare cassette delle lettere in un crescendo di violenza, fino a bruciare stazioni e mettere bombe nelle ville dei parlamentari, dalla Scozia al sud dell'Inghilterra. Ma nemmeno questo fu sufficiente. Il primo ministro continuava a promettere senza mantenere. E cominciarono gli scioperi della fame in carcere, dove migliaia di suffragiste venivano rinchiuse come criminali comuni e dove la stessa Emmeline fu messa per ben 7 volte, anche già anziana. E la orribile tortura dell'alimentazione forzata attraverso un tubo in gola o nel naso, che fece inorridire l'opinione pubblica. Le militanti, l'esercito di Emmeline, non si tirarono mai indietro. Vennero derise, picchiate, insultate, scacciate, ma continuarono la loro azione inesorabilmente fino al martirio che avvenne nel 1913, quando Emily Davison morì travolta da un cavallo mentre manifestava al Derby. Emmeline cominciò a viaggiare e a vivere in casa di amici senza più dimora fissa. dando voce alle richieste delle suffragiste dall'America alla Russia. A 70 anni, sfinita dai digiuni e dalla fatica, lasciò il corpo. Un anno dopo, il suffragio femminile venne concesso in Inghilterra e poi, a seguire, con molto comodo, nel resto del mondo. Ci si chiede naturalmente perché sia stata necessaria tanta violenza, tanta brutalità, tanta sofferenza per concedere qualcosa che non avrebbe mai neanche dovuto essere messo in discussione. La Scuola delle Donne è onorata di proporre La mia storia, autobiografia di Emmeline, edita da Castelvecchi, tradotta da Gianluca Testani e letta da Giorgia, figlia di Lidia. Da Devana, figlia di Liliana, buon ascolto.